Beh, a sentire il capitano sembrava un'impresa impossibile. Invece l'abbiamo aperto in un lampo. Pensavate forse che questa fosse la vera prova? All'interno del forziere troverete solo la mappa che vi condurrà nel luogo in cui è custodita la chiave, dove vi aspettano le vere prove.